in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Oggi i titoli sono un po' diversi da giornale a giornale, le fotonotizie sono quasi tutte, arrivano quasi tutte dal Medio Oriente, dalla striscia di Gaza. Avete sentito nei GR, sicuramente nei GR sarete aggiornati su quello che sta succedendo. Vediamo allora magari gli approfondimenti. Il Corriere della Sera ha un'intervista fatta da Maria Teresa Meli al Premier Renzi, che viene titolata in prima pagina con un virgolettato: Italia commissariata non esiste. Occupa tutte le pagine 2 e 3, vi invito a leggerla, è interessante, si parla dei temi della crescita e di tanti altri temi. Vi leggo la risposta su Grillo, perché dimostra come, nonostante gli screzi, anche con molta ironia e i punzecchiamenti, a volte anche gli insulti, tra il Premier, il PD e Grillo, c'è comunque la volontà di tenere aperto un dialogo e di guardare ciò che di buono gli uni possono offrire agli altri. Allora Maria Teresa Meli dice a Renzi: intanto Grillo prepara il sit-in, e Renzi risponde: è la cosa che gli riesce meglio, organizzare proteste è il suo mestiere, il mio invece è cambiare l'Italia. Vorrà dire che martedì mattina, mentre si prepara la 27esima marcia su Roma, che ormai mi sembra una retromarcia su Roma, e mentre urla al 42esimo colpo di Stato dall'inizio della legislatura, gli faremo trovare una puntuale risposta del PD, argomento per argomento, al suo decalogo della settimana scorsa. E qui appunto vi dicevo la parte che mi sembra più apprezzabile del confronto tra Renzi e i 5 Stelle. Alcuni parlamentari e amministratori 5 Stelle sono molto bravi. Spero che abbiano la forza di farsi sentire e non siano zittiti dal blog o espulsi. Le loro idee ci stanno a cuore, la loro passione non merita di disperdersi in un insulto o in una manifestazione. E questo vi dicevo, l'intervista, due pagine, pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, di Maria Teresa Meli al Premier Renzi. La Repubblica ha un'altra intervista importante, o meglio la trascrizione di un lungo colloquio, credo sia il terzo ormai, tra Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore di Repubblica, ora editorialista, e Papa Francesco. Il titolo: il Papa due punti, come Gesù userò il bastone contro i preti pedofili. In questa Scalfari racconta un po' come nascono questi colloqui, e vi leggo anche qui pagine 2 e 3 di Repubblica. Vi leggo l'ultima parte perché si tocca un tema, il tema della pedofilia è stato trattato molto anche nei giorni scorsi, si tocca invece qui il tema del celibato. Scrive Scalfari: è passata un'ora e mi alzo, il Papa mi abbraccia e mi augura di risanare al più presto, ma io gli faccio ancora una domanda. Lei, Santità, sta lavorando assiduamente per integrare la cattolicità con gli ortodossi, con gli anglicani. Mi interrompe continuando: con i valdesi, che trovo religiosi di prim'ordine, con i pentecostali e naturalmente con i nostri fratelli ebrei. Ebbene, molti di questi sacerdoti o pastori sono regolarmente sposati. Quanto crescerà col tempo quel problema nella Chiesa di Roma? Chiede Scalfari, e l'ultima risposta di Papa Francesco è: forse lei non sa che il celibato fu stabilito nel X secolo, cioè 900 anni dopo la morte di Nostro Signore. La Chiesa Cattolica Orientale ha facoltà fin d'ora che i suoi presbiteri si sposino. Il problema certamente esiste, ma non è di grande entità. Ci vuole tempo, ma le soluzioni ci sono e le troverò. E conclude Scalfari: ormai siamo fuori dal portone di Santa Marta, ci abbracciamo di nuovo, confesso che mi sono commosso, Francesco mi ha accarezzato la guancia e l'auto è partita. E questo appunto il resoconto del colloquio tra Eugenio Scalfari e Papa Francesco, pagine 2 e 3 di Repubblica. Il Sole 24 Ore apre con un'inchiesta su una grande malattia dell'Italia, che è quella delle opere iniziate mai concluse. E questa inchiesta, fatta da Giorgio Santilli e che prosegue poi a pagina 3, intitolata "Sono 661 le opere ferme". C'è una radiografia fatta dallo stesso governo, pensate, valgono 2,6 miliardi, ne mancano 1,3. Radiografia fatta dal governo, perché questa radiografia è contenuta nel cosiddetto decreto sblocca Italia. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo poi, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, dove il nostro collega di finanza si occupa di un titolo quotato per cercare appunto di dare dei consigli agli investitori. Questa settimana è Datalogic, il titolo: Datalogic riordina l'industrial automation negli Stati Uniti, più spese in ricerca e sviluppo. Un'altra inchiesta che trovate a pagina 16 Da conto di un'indagine di Banca Italia fatta insieme al Sole 24 Ore sulla congiuntura, con anche una radiografia degli investimenti all'estero. Stefano Manzocchi ci racconta, c'è poi uno schema, una mappa dell'Italia che riassume con un'infografica molto efficace dove c'è la ripresa e dove invece prevale ancora la stagnazione. La prima pagina della Stampa è invece dedicata a Israele. Israele pronto all'attacco finale. Vi segnalo dalla Stampa un intervento di Abraham Yehoshua, uno dei più grandi scrittori israeliani viventi, intitolato "Non sono terroristi ma solo nemici". Vi leggo la prima parte, poi trovate il resto dell'intervento a pagina 21. Quando Israele fu fondato nel 1948, i giordani bombardarono Gerusalemme, la posero sotto assedio e uccisero centinaia di suoi cittadini. I combattenti la legione araba conquistarono i centri ebraici di Gush Etzion in Giudea, trucidarono molti israeliani e assassinarono a sangue freddo numerosi prigionieri. Ma durante tutti quei mesi di guerra dura e brutale, nessuno definì i giordani terroristi, erano nemici. E malgrado lo spargimento di sangue, ci furono contatti tra ufficiali israeliani e giordani per raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e la firma di una tregua precaria, ottenuta nel 1949 grazie alla mediazione delle Nazioni Unite. La prima pagina dell'Avvenire, anche in questo caso dedicata alla guerra, perché così dobbiamo chiamarla, ormai sono 6 giorni e il bilancio dei morti e dei feriti sale esponenzialmente ogni giorno. Raid senza sosta, diplomazia in campo, si lavora per la tregua, si prega per la pace, così riassume l'Avvenire quello che sta succedendo. In 5 giorni di attacchi israeliani su Gaza sarebbero già 150 i morti e 1000 i feriti. Dal Consiglio di sicurezza dell'ONU è arrivato ieri un appello per il cessate il fuoco. Purtroppo sappiamo quanto poco efficaci sono spesso gli appelli dell'ONU. Oggi però a Vienna potrebbero esserci dei primi veri contatti di pace. Vi segnalo dall'Avvenire perché ricorderete soltanto poche settimane fa l'incontro in Vaticano tra i rappresentanti delle 3 grandi religioni, e oggi l'Avvenire titola la pagina 7 "Quel seme di speranza cresce", con un'intervista a padre Neuhaus: "Le armi non danno la vittoria, i nostri leader non siano ostinati, abbiano il coraggio della pace", con un rabbino Skorka: "La preghiera nei giardini vaticani ha tracciato un cammino che resta l'unica via percorribile e un'intervista al Gran Mufti: "Abbiamo apprezzato i gesti del Papa, questa violenza inaccettabile è il contrario di quel che si auspicava". Stasera la grande finale del mondiale, allora spazio un po' alla retorica, ai titoli un po', se vogliamo, un po' esagerati. Quello della Gazzetta dello Sport, occhio al fattore M, naturalmente Messi ma anche Müller. Della Germania, Müller Messi a chi il mondo, ecco, un po' esagerato forse. Ecco il gran finale, c'è da eleggere la squadra regina. Il tedesco Thomas Müller punta anche al titolo di capocannoniere con vista sul pallone d'oro. La Pulce, sapete il soprannome di Lionel Messi, va in campo con la benedizione di Maradona, che ieri ha predetto: segna 2 gol e la coppa sarà nostra. Il titolo del Messaggero: crescita UE, il piano italiano. In questo caso l'intervista è al ministro Del Rio: ripresa debole per tutti, subito un programma comune di investimenti, cofinanziamenti fuori dal calcolo del deficit, profondo riassetto delle partecipate dello Stato. La trovate a pagina 2. Sul Messaggero trovate anche l'approfondimento più ampio sulla vicenda all'Italia. Sapete, c'è ancora molto incertezza perché tutti i sindacati tranne la CGIL hanno sostanzialmente detto di sì al piano, con questo accordo sugli esuberi drasticamente ridotti, e naturalmente grazie alla mediazione del governo e del ministro per le infrastrutture Lupi. La CGIL però ha fatto quello che il Messaggero definisce lo strappo, e qui appunto un approfondimento su quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Di Alitalia parla anche Libero, con un intervento in prima pagina del direttore Maurizio Belpietro che dice: "Alitalia comunque vada, pagheremo noi grazie ai sindacati". Naturalmente questo è un riferimento al fatto che in ogni caso il governo dovrà varare, quindi lo Stato e quindi noi cittadini dovremo comunque ancora una volta farci carico del costo di questa trattativa sull'Alitalia. Su Libero, ma su anche tanti altri giornali, ci sono gli interventi di chi dice stasera ti farò Argentina e invece chi dice stasera ti farò Germania. Su Libero Carlo Pelanda dice che ti farà Germania, l'antipatico ordine teutonico è meglio del disordine perenne e Mario Giordano invece dice per carità se vincono i crucchi siamo davvero al quarto Reich. Naturalmente un'esagerazione assolutamente contestabile, ma vabbè, questo è il parere di Mario Giordano. Sul Giornale invece c'è un approfondimento ancora una volta, ma forse non è mai abbastanza parlarne, sulla burocrazia italiana, morire di scartoffie, con una, ripeto, un'inchiesta del Giornale: ogni impresa impiega 30 giorni l'anno per compilare le carte bollate e paga fino a 12.000 euro. Poi c'è un approfondimento anche qui sull'accordo all'Italia che si dice decolla e solo la CGIL resta a terra. Vi segnalo invece qui c'è un altro tifoso per l'Argentina, che è Marcello Venziani, che è l'autore della rubrica che c'è in genere sulla prima pagina del Giornale. Oggi si mette a pagina 4, un calcio all'Europa perché da noi tutti tifano Argentina, e poi è tutto da vedere se in Italia tutti tifino Argentina. Il Fatto Quotidiano, anche qui chi tifa Argentina, chi tifa Germania, forse c'era da aspettarselo. Marco Travaglio tifa Germania, mi piacciono i crucchi, maestri di lealtà. E invece Antonio Padellaro, direttore del Fatto, dice: io invece tiferò Argentina e credo alle favole. Il titolo però è dedicato a un provvedimento che potrebbe mantenere in vita l'anatocismo, e da qui il titolo Banchi, interessi, canaglia. L'anatocismo infatti sono gli interessi sugli interessi. E poi un approfondimento sulle sedi e le spese pazze delle regioni e le difficoltà che sta incontrando il commissario alla Spending Review Cottarelli comunque a farsi anche soltanto un quadro di quello che sono appunto le spese delle regioni. Vi segnalo ancora, prima della pausa per il traffico, il titolo del Manifesto, finale di Gaza, dedicato ai bombardamenti su Gaza. La foto è quella di quattro donne che piangono i feriti e probabilmente anche i morti. E poi l'Unità, rompiamo il silenzio, l'agonia di Gaza, 135 morti, il mondo resta a guardare. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali, ora vediamo un po' all'interno e soprattutto i supplementi culturali. Oggi abbiamo un po' meno tempo del solito, però come sempre vi invito a comprare quotidiani, a sfogliarli, oggi sono pieni di cose interessanti. Dal Corriere della Sera una pagina intera, pagina 21, a cura di Elisabetta Soglio. Sapete, manca meno di un anno a Expo 2015, che è un evento importante per Milano ma anche per l'Italia. Elisabetta Soglio ci aggiorna su come stanno crescendo i padiglioni. Così nascono Palazzo Italia e l'Expo, i lavori finiranno in tempo, questo è un virgolettato di Sala, il commissario per l'Expo. In questa pagina trovate anche alcune immagini a meno di 300 giorni dall'inaugurazione. Entro un mese 35 paesi, ci racconta Elisabetta Soglio, saranno già al lavoro sui loro padiglioni. Dalla Repubblica vi segnalo una pagina intera a cura di Cristiana Salvagni, intitolata Addio cassiere, ora in banca dietro lo sportello c'è solo un tablet. È interessante perché fa capire come non sia soltanto l'editoria, lo sappiamo, a essere modificata, a essere messa anche in grave difficoltà da internet, dalla tecnologia, ma in questo caso anche le banche. Avrete notato tutti quante filiali di banche sono sparite perché internet ha sostituito purtroppo, potremmo dire, le persone. Ebbene, anche appunto ci sono tantissimi altri cambiamenti in atto, come per esempio ci ricorda in questa pagina i caselli autostradali, le pompe di benzina, i bar che funzionano 24 ore su 24, distributori automatici, insomma tecnologia che avanza e spesso posti di lavoro che spariscono. E dalla Repubblica vi leggo anche la maca di Michela Serra, l'ho fatta anche ieri, anche oggi mi sembra molto, molto significativa. In poche parole spiega forse quanto sia difficile per noi da qui, anche se siamo tutto sommato a poca distanza, capire quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Christian Raimo sul Post mette per iscritto la sua stremata incapacità di dire qualcosa su Gaza, eterno remake di cose già viste cento volte definite atroci e inutili. Non rivendica il suo silenzio né lo confessa, semplicemente lo espone. Raimo è di parecchio più giovane di me, il classico potrebbe essere mio figlio, e dunque leggere nelle sue parole la mia stessa impotenza è stato un sollievo. Evidentemente il ciclo dell'indignazione è un meccanismo logoro, non solo per chi scrive sui giornali da 40 anni esperimenta la ripetitività delle parole e delle formule di condanna, lo è anche per chi ha avuto meno tempo e meno occasioni per sentire dentro le proprie parole, il rumore del vuoto. Citando due intellettuali donne, Susan Sontag e Ida Domenichiani, Raimo attribuisce all'esitazione della voce, ancor più al silenzio, un valore ben diverso dall'indifferenza. Ha ragione. Se la parola è o dovrebbe essere testimonianza, piuttosto che sentirla battere a vuoto, a volte è meglio sospenderla. Testimonia meglio la smisurata sproporzione tra la ferocia inesausta degli eventi e quel poco che sappiamo pensare e scrivere in proposito. Oggi, per esempio, ho già parlato troppo. Era La Maca di Michele Serra. Dall'Avvenire vi segnalo anche un approfondimento sul gioco d'azzardo, perché ci sarà una nuova legge pronta entro il 2014, se ne parla da tanto tempo, e il gioco d'azzardo naturalmente fa tanti danni perché è una forma di dipendenza. Allora l'Avvenire, oltre a questo approfondimento, a questo aggiornamento sulla legge che sta arrivando, che gli altri giornali non hanno, ci racconta anche una storia di una persona che in 40 anni racconta: ho perso 300.000 euro. Temo di non avere molto altro tempo per segnalarvi dalle pagine interne dei giornali, perché volevo invece parlare un po' delle pagine culturali. E allora cominciamo naturalmente dalla Domenica del Sole 24 Ore, cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi è dedicato alla parola matrimonio. La citazione è questa: marito e moglie amavano molto avere ospiti, perché se restavano soli litigavano di continuo. È una citazione di Anton Cechov, il grande scrittore russo, e ci racconta Gianfranco Ravasi: Cechov è stato un maestro nel racconto e nel teatro, e al fascino del suo stile contribuiva anche l'incisività di alcune sue frasi, come questa, che simile a un bisturi penetra nelle carni malate di molti sposi o compagni di vita. Il commento potrebbe essere affidato a un altro autore ottocentesco molto meno affascinante, Hippolyte Adolphe Taine, che però in questo caso si rivelava graffiante. Dicono i pessimisti che nel matrimonio ci si studia per 3 settimane, ci si ama per 3 mesi, si litiga per 3 anni e ci si tollera per 30 anni. Per fortuna, conclude Ravasi, questa convinzione è posta sotto l'insegna del pessimismo. Sì, perché esistono in verità matrimoni sereni e teneri che durano per anni, passando dalla primavera all'inverno della vita con lo stesso quieto amore. Dalla prima pagina del Domenicale anche la rubrica del nostro direttore Roberto Napoletano, Memorandum, che inizia con la pubblicazione di una lettera che gli è arrivata da un ragazzo di Napoli, Manuel Palmiero. Gli è arrivata giovedì e lui risponde a la rubrica intitolata Manuel e l'orgoglio dei ragazzi del Sud dentro il Sud. Dopo aver riportato la lettera di Manuel, Napoletano risponde: i ragazzi del sud di dentro, quando decidono di mettersi in gioco, non li può fermare nessuno. Possono anche lasciare per un po' Napoli, Caserta, Marcianise, ma poi ritornano e riportano in casa qualcosa di ciò che hanno costruito fuori. E dalle pagine interne del Domenicale vi segnalo anche a pagina 27 2 approfondimenti sulla scuola, uno molto bello di Franco Lorenzoni sull'importanza dell'asilo. L'asilo, cioè quel diciamo convenzionalmente, quindi quel periodo trascorso nelle scuole tra i 3 e i 5 anni, grande scuole di vita. È tra i 3 e i 5 anni che si sperimentano difficoltà e bellezza della condivisione e si costruiscono le basi dell'educazione. E poi un intervento di Claudio Giunta che torna sul tema della valutazione dei docenti. I meriti del docente si valutano in classe. Gli insegnanti vanno valutati e premiati per come insegnano, non per quello che fanno in ruoli organizzativi o in attività specializzate. E su Nova, che è l'altro supplemento che trovate alla Domenica sul Sole 24 Ore, sempre a proposito di scuola, Pierangelo Soldavini ci racconta come la tecnologia possa comunque invadere benevolmente la scuola. Scuola frontiera dell'inclusione, bambini che collaborano nel cloud, scuole isolate connesse, e da Scampia arriva un modo innovativo per insegnare matematica. Il supplemento della Domenica del Corriere della Sera, La Lettura, come sapete la copertina è sempre lasciata a un artista, questa volta è H. Kalim, con un uomo che fa gesti, forse anche ci ricorda l'importanza del linguaggio dei gesti. Dall'interno vi segnalo, sapete la mia passione per le infografiche, a pagina 9 l'infografica oggi è dedicata a quanto guadagnano gli attori a Hollywood. Hollywood ama le donne, paga gli uomini, e c'è questo, i winners sono da una parte Robert Downey Jr., che ha stabilito il record di 75 milioni di dollari credo per Iron Man 3, e Angelina Jolie, che invece ne ha guadagnati 33 per il suo ultimo film Maleficent. dalle pagine dedicate all'arte un approfondimento su Andy Warhol. Sono infatti ricomparsi i floppy disk del suo personal computer Amiga, ve lo ricorderete, quei computer di tanti anni fa. Questo è tra l'altro interessante perché ci riporta al problema di come i supporti tecnologici di oggi forse tra 20 anni saranno difficili da leggere. Però una troupe del Carnegie Museum ha ripreso gli scavi sul materiale informatico di Andy Warhol recuperato a Pittsburgh, e una squadra di studenti ha lavorato un anno per non danneggiare questi supporti magnetici. In autunno, ci racconta Vincenzo Trione, le opere ritrovate andranno finalmente in mostra. Dal Fatto Quotidiano una bellissima intervista a Giuseppe La Terza, l'editore, di Silvia Truzzi, intitolata Croce, i libri e i ragazzi della FGC, il dovere di essere un editore. Tanti ricordi, tanto amore, diciamo, per questo mestiere di editore. Dal Messaggero vi segnalo un approfondimento, ne ho parlato anche ieri, sulla sfilata di alta moda a Roma. Qualcuno via SMS mi ha anche criticato per questo, ma in realtà, come dicevo, l'alta moda è per pochi, e sicuramente l'alta moda, quella veramente quella che ci impressiona di più, è quella di Parigi, dove ha sfilato settimana scorsa. Però l'alta moda è anche, ve lo assicuro, per quel poco che ne so occupandomene, è anche un grandissimo laboratorio di artigianalità, e salva queste competenze artigianali che poi il mondo ci invidia. Ecco, allora, è che Paola Pisa e Anna Franco ci raccontano dai primi due giorni di alta moda romana sarli sfrontate geometrie, con delle bellissime foto su queste creazioni. La domenica invece di Repubblica ha un approfondimento, non è il solo quotidiano, però qui forse è lo spazio maggiore, ai 200 anni dei carabinieri. Infatti il 13 luglio del 1814 Vittorio Emanuele I fondò il corpo dei carabinieri reali. Nei due secoli fedeli, tanti articoli, anche uno di Andrea Camilleri, che sapete, insomma, di carabinieri, carabinieri ne ha ospitati tanti nei suoi libri. Dalla Repubblica anche l'intervista, come ogni domenica, di Antonio Gnoli, questa volta è a Franco Rella, con il bellissimo ritratto, come ogni domenica, di Riccardo Mannelli. Vivevamo in una casa rumorosa, con i libri imparai a isolarmi. Scrittore, filosofo, professore, anche qui ricordi di cultura, dei ricordi di un uomo di cultura, di un intellettuale, e anche invito forse appunto a rivalutare sempre o a considerare sempre il ruolo che la cultura e la lettura possono avere nelle nostre vite. Ultimissima segnalazione, la rubrica di Walter City, dedicata alla poesia, oggi niente proprio di meno che a Shakespeare. Com'è camaleontico Shakespeare in Love, con uno dei suoi sonetti sulla sua bisessualità. Torna anche Walter City, perché di questo si è discusso molto. Certo, doveva essere tanto scomodo se l'editore nei sonetti nel 1640 cercò di purgarli mettendoli tutti al femminile. Era l'ultimissima segnalazione che riesco a farvi. Buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.